Vlog. Cronache meridiane di Gianluca Nicoletti. Via Oreste, non è che un coniglio col panciotto e l'orologio. Oh, può fare, può farissimo. È tardi, è tardi, è tardi. Questa sì che è buffa. Perché mai dovrebbe essere tardi per un coniglio? Mi scusi, signore. Ma che? Ma che? Non aspettano che me. In ritardo sono già. Non mi posso trattenere. Deve essere qualcosa di importante, forse un ricevimento. Signor Coniglio! È chiaro che il fratel coniglietto ci fa tenerezza, anche il Bianconiglio, anche Bugs Bunny, anche Roger Rabbit ci piaceva moltissimo. È chiaro che nella nostra fanciullezza c'è sempre stato un coniglietto di peluche o i coniglietti di Pasqua, quelli che portano le uova colorate, così belli, batuffolosi, via dicendo. Ma è chiaro anche che questo vale anche per altri animali. Peppa Pig dovrebbe aver indotto generazioni di bambini occidentali, quello cristianamente cresciuti, sul fatto che mangiarsi il maiale forse gli fa un po' repulsione, la piccola Peppa Pig trasformata in cotolette, come si può immaginare? Beh, riguardo al coniglio c'è un'iniziativa che ci è piaciuto seguire questa mattina e che ci piace sottoporre all'attenzione del pubblico. Il 5-6 dicembre potranno gli italiani firmare la petizione della LAV per promuovere il coniglio ad animale domestico. Se il coniglio diventasse animale domestico come il gatto, nessuno potrebbe più mangiarlo. Oggi non posso farmi uno spezzatino di gatto, mi arrestano, perché il gatto è protetto in quanto animale domestico, quindi ricettacolo e collettore di un'affettività umana che deve essere salvaguardata. Lo stesso vale per il cane, però per il coniglio in realtà questo non funziona. Compriamo i coniglietti di peluche, diciamo ai bambini che verrà il coniglietto a portargli l'ovino zuccheroso, però il coniglietto in salmì con la carotina infilata laddove non si può dire, ancora ce lo mangiamo tutti. Beh, siete d'accordo di promuovere il coniglio e salvare la vita ai fratelli conigli? Siete d'accordo che si deve iniziare una battaglia di civiltà per cui dopo il coniglio anche il pesce rosso, anche non so, una serie di animali che in realtà ancora sono vilipesi, ma anche il cavallino, perché no? I piccoli pony ci fanno tenerezza. Mangiare i cavalli è qualcosa, però per una persona che è appassionata a cavalli, qualcosa di indecente. Beh, iniziamo con i conigli, poi vedremo con gli altri animali. D'accordo o contrario a salvare la vita al coniglio? Guardate che dalla vostra risposta si determinerà una sorta di mannaia perenne, continuerà a battersi sulle povere testoline innocenti dei fratelli conigli. A tra poco. Nuova Audi A4. Scopritela negli showroom Audi e su audi.it. Vi presenta. Melog. Cronache meridiane. Facciamo un bellissimo coniglio alla stimpirata. Ho capito. Va bene? E cosa ci vuole? Ci vuole niente, ci vuole che ora si prendono i pezzettini di coniglio, sì, che si devono lavare, l'ho già lavato. Faremo appunto il coniglio al forno con le patate. Il coniglio prima lo abbiamo infarinato e poi lo abbiamo messo a friggere da una parte. Come a fare una cacciatora pazzesca, in questo caso anche facile. Sedano, carote e cipolle tritati vanno con l'olio in casseruola. Il coniglio, io lo lascio prima, se dovete spurgarlo, in acqua e aceto, ma se comprate il coniglio al supermercato non è così selvatico come una volta, quindi va bene tagliarlo a pezzi e cuocerlo direttamente in questo soffritto in modo che diventi bellino croccante. Poi lo sollevo, aggiungo nel soffritto i pomodorini schiacciati che servono solo a dare un po' di umidità, non diventerà rosso, la salvia e il rosmarino che profumano il tutto. Sfumo prima con vino bianco in modo che si dealcolizza, in modo che la carne non lo assorba, e poi riaggiungo il coniglio all'interno. Sembra paradossale parlare di tagliare a pezzi un essere senziente di cui alcune persone si stanno cominciando a preoccupare. Mi faceva notare l'ottimo buttafuoco che sta occupando, come sempre piacevolmente per me, questo studio come sua redazione, che in realtà l'ipotesi di salvare la vita ai conigli, evitare che siano tagliati a pezzi in questa maniera così spietata, in realtà salverebbe la vita anche a molti gatti, perché impropriamente, in maniera truffaldina e criminale ai termini di legge, è risaputo che molti ristoranti, per risparmiare il prezzo del coniglio, si approvvigionano di gatti che prendono per strada, rubano, facendo piangere le gattare, li spacciano per coniglio. Quindi se per assurdo o felicemente passasse, avesse un esito positivo questa petizione, oltre a salvare i conigli che stanno a cuore alle persone che appunto l'hanno promossa, salveremo anche molti gatti che nella totale anonimato, senza nemmeno avere la gloria di un riconoscimento, subiscono, ahimè, una fine cruenta che a loro meno sarebbe da legge, sarebbero preservati per legge. Roberto, buongiorno. Buongiorno, salve. Il suo punto di vista. Ma dunque, io vorrei dire due cose velocissime a questi signori che promuovono queste iniziative. Che però è lecito farlo, non è che uno... È lecito, per l'amor di Dio, certo, siamo in democrazia, uno può fare quello che vuole. Io domani posso farlo per i maiali, perché se io ho un maialino in casa posso essere contrario a mangiare maiali. Ma questo non che vuol sono animali che... molto intelligenti i maiali. Esatto, esatto. Però volevo dire due cose velocissime. Questa era la prima. La seconda è che intorno al coniglio gira c'è un mondo di lavoro notevole, insomma. C'è gente che ci lavora, macellai, allevatori, piccoli contadini che campano e che vanno avanti col coniglio. Che lei dice c'è un indotto, c'è un indotto economico notevole. Certo, quindi... Questa gente che ovviamente non ha niente da fare... Guardi, io... Sono la prima persona che prende sempre in tono scherzoso e irriverente queste iniziative, però non c'è niente da fare. Sono persone fortemente convinte di compiere un'operazione in linea con la loro visione della vita. Considerano i conigli animali senzienti, esseri senzienti. Quindi dice, per noi la sofferenza di un coniglio, poi mi faccio interprete, poi parleranno anche loro, naturalmente avranno modo di parlare. La sofferenza di un coniglio, secondo noi, è evitabile e per evitarla, visto che il coniglio è un animale grazioso, tenero, è nell'immaginario comunque degli esseri umani, cerchiamo di farlo passare come un gatto, come un animale domestico, quindi come animale domestico gli salviamo la vita. È un punto di vista, come tanti. Maria, buongiorno. Sì, buongiorno. Io anche sono assolutamente contraria al fatto di promuovere il coniglio come animale domestico. Tenga presente che noi abbiamo due coniglietti, anzi, uno ce l'ha probabilmente rubato un fratello perché sa che sono abbastanza predatori, perché sono liberi in giardino. Quindi lei ha dei conigli come animali domestici, ti tiene? Sì, sì. Quindi però... allora dovrebbe essere d'accordo. No, non lo sono per niente. Il mio amico fa l'allevamento di conigli, cioè come canterà dopo. Ma non so. Pensi al suo amico? Chiaramente io non mangerò mai, noi non mangeremo mai i nostri coniglietti. Con questo non significa che bisogna... Solo promuovere. Per capire, scusi, se lei attribuisce i suoi coniglietti, come si chiamano i due coniglietti suoi? Tippete e Oliva. Tippete e Oliva, ecco, Tippete che è il coniglietto di Bambi, Oliva non so chi sia, però sarà un coniglietto che lei ha attinto da un suo immaginario tenero e fanciullesco. Dei piccolini, i miei nipoti che hanno dato i nomi. Ecco, ma lei di fronte ai suoi nipotini prenderebbe quei coniglietti per le orecchie, darebbe loro un colpo alla collottola, no, li spellerebbe e li metterebbe in padella con l'aglio, la cipolla e il rosmarino? No. Assolutamente, questi perfetto. Non si mangeranno mai, ma le dirò anche di più che i miei nipoti non vorranno mai mangiare più carne di coniglio. Ho capito, ma scusi, ma può esistere in realtà in una specie omogenea gli strafighettoni fortunati Tippete e Oliva che nessuno se li mangia e i loro cugini magari al supermercato lì belli spellati con la pancia aperta, no? Beh, però con questo io non sono d'accordo assolutamente. Lei avrebbe coraggio di mangiarsi un coniglio alla cacciatora con Tippete e Oliva che scorrazzano per la cucina? Sì. E vedono le orecchie tagliate del loro fratello coniglio, cosa dicono? No, i miei nipoti guai non li vogliono più mangiare, però io trovo che sia assurdo, perché allora se io mi tenessi anche questi maiallini che sono anche così carini, abbiamo tanto giardino, possiamo tenere, se tutti ci fanno, cioè promuovono tutti questi animali come animali domestici, non ce la caviamo più, non lo so. Può essere che lo scopo finale di considerare gli animali come esseri senzienti sia proprio questo. Però adesso diamo subito la parola, visto che abbiamo scaldato un po' il pubblico, perché possa prendere posizione. 800240024, siete d'accordo nel salvaguardare da una fine orribile i conigli, di finire in padella promuovendoli ad animali domestici, oppure no, come pure questi signori stanno dicendo, o come la signora ci ha chiamato, fate un distinguo: i miei conigli che tengo in casa come animali domestici non me li mangerei mai, però gli altri conigli sì, che trovo un atteggiamento un po' lievemente ambiguo. Gianluca Felicetti, buongiorno. Buongiorno. Presidente della LAV, Lega Antivivisezione. Dalle prime telefonate, poi ci spiegherà bene il senso dell'iniziativa che ho solo abbozzato, si è fatto un'idea di quella che è la percezione generale degli umani civilizzati occidentali mediamente benestanti nei confronti del coniglio? Certo, abbiamo paura di cambiare in tante cose e quindi anche nelle nostre abitudini o tradizioni. Il coniglio si è sempre mangiato, si mangiava anche il gatto, è stato ricordato che anche se legalmente potrebbe essere mangiato ancora oggi, si è mangiato il cane, ma quello che è importante sottolineare è che possiamo non ci sono mangiati anche i figli in tempi di carestia, noi abbiamo mangiato di tutto, diciamo la verità. Non neghiamo che la carne umana possa essere buonissima, ma questo non è una, o che per alcune popolazioni è una tradizione, anche se eccezionalmente Hannibal Lecter la predilige ogni altro cibo, certo. Esatto, per cui la campagna che stiamo conducendo con Animal Equality in tutta Italia, che ha un sito che è coraggioconiglio.it, è proprio per dare coraggio a questi animali, perché abbiamo scoperto che questi animali rappresentano un record di allevamento nel nostro paese. Siamo il secondo più grande produttore di conigli in tutto il mondo e però contemporaneamente siamo anche un paese dove i conigli stanno entrando man mano anche nelle case e diventando degli animali cosiddetti d'affezione o da compagnia. Ha qualche dato su quanti conigli vengano venduti come animale da compagnia, più o meno, per capire? Allora, ad oggi, secondo una stima Eurispes, sono circa 800.000 i conigli che vivono nelle case, considerati come cani o gatti. Ovviamente speriamo che stiano tutti bene e che non vengano maltrattati, perché il detenerli, come è ben rappresentato dalla telefonata prima della signora, non vuol dire poi estendere quella compassione, quella condivisione di sentimenti anche con gli altri conigli o con gli altri animali. Poi mi sembra di capire, scusi Fece, ci troviamo in una sorta di filo sospeso in cui non è ben definito l'atteggiamento, mentre da una parte un numero grosso di italiani compra i conigli perché li chiederanno i bambini, nei negozi animali si vendono sempre di più assieme a cani, gatti, pappagallini e altri animali da domestici, diciamo anche conigli, quindi il bambino vuole il coniglietto, si porta a casa e comincia a diventare un membro della famiglia come per qualsiasi animale domestico, quindi comincia a entrare, qua per il maiale non esiste questo, tanto per fare un esempio, nessuno starebbe, pochi almeno, sono pochissimi casi, tengono un maialino per casa. Ecco, però allo stesso tempo c'è questa sorta di doppia lettura, i miei non me li mangio, quelli che però compro al supermercato, vedo in giro come se fossero altri, come nel definire nella categoria dei conigli una sorta di casta, gli intoccabili a rovescio, cioè nel senso gli eletti sono quelli che sono riusciti per botta di fortuna a entrare in una casa che non mangia nessuno, ma tutti gli altri, pur essendo magari della stessa famiglia, possono essere mangiati. Su questa domanda la lascio un istante, devo dare la linea per un'interruzione e poi riprendiamo con il nostro pubblico. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore. Le firme più autorevoli del Sole 24 Ore aprono le porte al mondo dell'attualità politica ed economica nel primo editoriale cross-mediale di informazione. Dal lunedì al venerdì alle 9 e alle 17 su Radio 24 e su RDS e in video su radio24.it e su rds.it. Investi in fondi? Solo con Online Sim scegli tra oltre 4.000 fondi a zero commissione di ingresso. Vi presenta... Melog. Cronache meridiane. Vediamo gli ingredienti. Un coniglio fatto a pezzi, mi raccomando, andare da un buon macellaio e fatevi dare proprio un coniglio di Ischia, i cosiddetti conigli di fossa, che hanno un sapore particolare, crescono quasi allo stato bravo, quasi in libertà. Non soltanto i pezzi del coniglio, ma anche dell'interiore, quindi noi dobbiamo avere come interiore a capro coniglio, poi c'è il fegato, il cuore e praticamente i reni. Dopodiché i vari pezzi del coniglio, abbiamo tolto soltanto quel po' di grasso in eccesso, ma proprio pochissima cosa. Alla luce di quello che stiamo dicendo e le riflessioni che stiamo facendo, questa sorta di truce e cruenta anatomia di un coniglio da parte di un gongolante chef che lo sta preparando all'ischitana o qualcosa del genere, risulta come una macabra dissezione di un essere senziente. Però dobbiamo cominciare anche a metterci in gioco, a pensare che possiamo anche cambiare le nostre mentalità. Non è detto che quello che è sempre valso come regola non possa essere messo in discussione. Dice una persona che normalmente è cinica e disincantata verso ogni moto d'animo. Io stavo riflettendo però su un fatto. Ricordo che stiamo ragionando su una petizione che appare su www.coraggioconiglio.it che vorrebbe promuovere il coniglio al rango di animale domestico per evitarne la macellazione. Questo dovrebbe diventare fuori legge. E stiamo ascoltando i nostri ascoltatori, sentendo i nostri ascoltatori, che gran parte di loro, come una percentuale alta di italiani, visto che consideravo il numero di conigli venduti come animali domestici, hanno conigli in casa. Ma nonostante questo sono titubanti nel fare lo scatto mentale e dire no, non affondiamo più la mannaia crudele nelle innocenti carni indifese dei nostri conigli. Stefano, buongiorno. Buongiorno. Io ho anche io due conigli da compagnia, cosiddetti conigli da compagnia, e trovo che non siano degli animali da compagnia sostanzialmente, sono veramente delle bestie. Beh, sono delle bestie, su questo non ci piove a priori. No, ma cioè, al contrario dei cani, dei gatti, cioè veramente sono... Cosa fanno? Cosa fanno? Morsicano, graffiano, non, praticamente i miei figli, vabbè, sono già grandicelli, 10-7 anni, cercano di prendere in braccio. Con rispetto parlando, scacazzano pure? Scagazzano, ma guardi che io ho il cane che è un cane di media taglia, ma confronto i conigli non è niente. Ma che i conigli ne fanno palline tante. Sì, le fanno palline tante, sempre allo stesso posto, e lì sono palate. Sono insidiose, no? Ovviamente, però sono conigli. La mamma è complice nell'avere i conigli, i figli sono contenti, ma quello che tira su la deiezione ovviamente è il papà, che quindi il sabato si fa. Beh, divertente, come Pollicino nella foresta, sì, che raccoglie le mollichine. È bellissimo raccogliere le liquirizine, è fantastico. E si mangiano i fili della luce, quello sì, tutti i cavi bisogna stare attenti e se li mangiano. Sì, tirano sui cavi. L'unica roba positiva è che adesso io so cosa gli do da mangiare tutto, e quando verrà il delizioso momento so che mangerò della carne che è... Ah, perché ve li mangerete alla fine? Ma i miei figli e mia moglie non penso, però io, insomma, tutte le cure che sto facendo sono... Lei avrebbe il coraggio di mangiarsi due conigli che tiene in casa? Quello non ce la farei nemmeno io, dico la sincera verità. No, sì. Ma come, se li alleva, ci giocano i bambini? Ma io non li sto allevando, io li sto mantenendo. Sì, ma i suoi figli vedono lì, appoggiato con le zampe all'aria e la pancia aperta di ripieno, l'animaletto in cui hanno giocato, è crudele. Vedremo. Vabbè, lei l'affronta cinicamente, lei non vede l'ora di fare la festa ai conigli che la importuna, è una sorta di terreno di scontro di non detti coniugali, lo capisco benissimo. Davide, buongiorno. Sì, buongiorno. Niente, io come l'ascoltatore precedente che diceva prima, cioè perché il coniglio sì e il maiale no, anch'io sono di quell'avviso. Io piuttosto proporrei di addolcire un po' gli allevamenti intensivi, perché secondo me la vera crudeltà è quella, cioè li farli star meglio quando sono sul miglio, sì, verde, piuttosto che esatto, cioè io gli concederei un'esistenza, magari anche di accoppiarsi e tutto quello che la vita, però si accoppiano come conigli praticamente tutto il giorno, ho capito, però magari metterci un freno, o se no io piuttosto proporrei l'obbligo di uno spazio adeguato per tutti gli animali, ma non solo per i conigli, anche per... Cioè come carcerati che adesso gli danno lo spazio per incontrarsi con le mogli e le fidanzate, piuttosto saletta, sì, di accoppiamento negli allevamenti per conigli. Sì. E bastano sempre lì dentro, loro se lo fanno sempre. Questo è un problema da risolvere, però. Riccardo pone un altro aspetto importante. Dicevo, sì. Ma a questo punto il pisciolino rosso cosa facciamo? Non mangiamo più pesce? È la stessa cosa, una maledetta animaletto, qualcuno raccoglie la zanzara in casa, si affeziona alla zanzara. Lei mica ci mette una cernia dentro il vasetto, ci mette pescioni rossi. Ma è il concetto, cioè siamo arrivati a un buonismo eccessivo ipocrita, tra un po' coltiviamo il bacillo dell'ebola e quindi non combattiamo più l'ebola. È un paradosso, siamo però, seri, però il coniglio sta entrando in un'area familiare affettiva, questo me ne dà atto, quindi è un problema comunque da affrontare. Gianluca Felicetti, ricordo, presidente della LAV, Lega Antivivisezione. La vedo un po' dura, diciamo, la battaglia. Vediamo se riusciamo a mettere altri argomenti. Io vedo una, ho preso l'elenco dei conigli e sto vedendo però che ci sono razze a pelo speciale, esempio l'angora, il rex, il satenne, il volpe. Sarebbero questi i privilegiati, ma non è che si salvano solo i belli, quelli che si tengono in casa, e i brutti conigli continueranno a essere macellati? No, ci sono tantissimi conigli da adottare, conigli che sono stati abbandonati, penso a Trento, alla periferia di Roma, in un quartiere di Roma come quello di San Paolo, ci sono conigli, vere e proprie conigliere dovute purtroppo all'abbandono, che ricordo che è un reato per qualsiasi... Perché la gente li prende in casa, poi crescono, non sono nani, li spacciano per nani, diventano coniglioni, li abbandonano. Esatto, ora al di là di chi sta parlando che è vegano e che auspica una scelta di non mangiare nessun prodotto di origine animale, concordo con gli ascoltatori che dicono beh, ma allora lo dovremmo fare anche per gli altri animali, però è importante partire dal coniglio ricordando che in un allevamento sopravvive 12 settimane prima della macellazione, mentre in casa, in natura, in un giardino può vivere fino a 12 anni, quindi queste sono le proporzioni, e nell'allevamento intensivo c'è solo l'inseminazione artificiale, non c'è nemmeno il diritto a poter ad accoppiarsi naturalmente come conigli, ma c'è solo l'inseminazione. Ma infatti un ascoltatore l'ha detto, ci diamogli almeno sì, però trovo che sia un palliativo, dire teniamoli bene finché non li ammazziamo, tanto vale. No, infatti non vogliamo gabbie più grandi, vorremmo fare in modo che come già sta succedendo le persone inizino a riflettere sulla propria alimentazione, a capire che non è obbligatorio mangiare carni di qualsiasi animale, e si può iniziare anche dal coniglio. Noi abbiamo un counter sul sito coraggioconiglio.it, ogni italiano mangia due conigli l'anno, questa è la percentuale. Sì, non si mangia molto, diciamo che almeno nelle abitudini metropolitane mi sembra di vedere che non è proprio, si mangiava in campagna perché era un alimento a buon mercato, tutti avevano la conigliera accanto a casa, si riproducevano molto facilmente, era facile allevarli, era un po' un cibo da poveri, ma oggi diciamo che potremmo anche farne a meno, non è che moriamo di fame, ecco, questo è il fatto. Un'alimentazione diciamo tra virgolette residuale, il record di consumo di carne di coniglio è in Campania, anche se il record di allevamento invece è nel Veneto, nella provincia di Treviso. Li allevano in Veneto poi li mandano in Campania. Sentiamo Oscar. Oscar, buongiorno. Buongiorno a lei. Io volevo ampliare, se possibile, un po' il discorso. Premetto che mia moglie è vegana e io non lo sono, ma mangio carne una volta a settimana, sì o no, perché comanda lei in casa. E fino a qua non ci piove. Io non vorrei che questa cosa qua fosse una specie di cavallo di Troia per entrare sempre dentro all'ambito della caccia. Ah, lei è un cacciatore perché... e te mi dice poi passiamo alle lepri subito. Esatto, ah. Cioè, no, io comunque non sono un cacciatore, io andavo a cacciare da quando avevo 16 anni con mio padre fino a 20 anni che mi ha fatto la firma lui per prendere la licenza di caccia. No, però è chiaro, adesso è chiaro, lo sento, sento Felicetti anche se la risposta è scontata. Allora, Gianluca Felicetti, dice questo ascoltatore, non è il cavallo di Troia, salviamo i conigli e poi dopo passate le lepri? Penso, sì, è chiaro. Beh, è chiaro che dobbiamo estendere a tutti gli animali il rispetto che dobbiamo a tutti gli esseri viventi, partendo ovviamente dalla nostra specie, ma non facendo distinzione di specie. Questa è la posizione degli animalisti, quindi siamo ovviamente contro la caccia e qualsiasi tipo di allevamento. Il coniglio non è un cavallo di Troia, è uno dei simboli delle contraddizioni che sempre di più stiamo vivendo, perché da una parte diciamo di virgolette amare gli animali e dall'altra altre invece continuiamo a mangiarceli. Allora, diciamo, adesso diamo la linea come di consueto alle comunicazioni di servizio, però premetto che tra un istante daremo voce a un produttore allevatore di carne di coniglio, quello che proprio presiede l'associazione Coniglio Italiano, che è il consorzio della Coldiretti che promuove il coniglio italiano, quindi sentiremo anche il punto di vista di chi sui conigli vive e probabilmente non si porrà certo mai questo problema. A tra un istante. Nuova Audi A4. Scopritela negli showroom Audi e su audi.it. Vi presenta... Melog. Cronache meridiane. Noi abbiamo sempre detto che non c'è modo di uccidere un cartone. Sì. Ben Norton ha trovato il modo. Trementina, acetone e benzina. Lo chiama la salamoia. Prenderò il coniglio, signor Valiant. Poi lo processerò, lo condannerò e lo giustizierò. La salamoia è l'intruglio che squaglia i cartoni animati Roger Rabbit, ma il coniglio in realtà è il salamoia finisce realmente nelle tavole degli italiani e oggi ci poniamo il problema che forse potrebbe essere anche salvato promuovendo l'animale domestico. Cinzia, buongiorno. Sì, buongiorno, sono Cinzia appunto e noi abbiamo questa associazione attiva già dal 2002 dove appunto raccogliamo, curiamo e facciamo adottare i coniglietti. Siete le gattare dei conigli? Esatto. Le conigliare? Esatto, siamo delle conigliare, siamo operanti principalmente in Veneto e siamo un gruppo di volontari appunto che oltre a fare la corretta informazione sulla gestione del coniglio come animale da compagnia, appunto raccogliamo questi coniglietti che le persone comprano, ma specialmente per i bambini, quindi sotto Natale ci sarà un boom di vendite. E poi li lasciano, per la Befana li abbandonano. Esatto, noi sappiamo che a gennaio avremo tantissimi recuperi da fare. Allora resti in linea, Cinzia, voglio che lei mi ascolti e mi aiuti, poi mi dia il suo parere, perché adesso diamo voce a Zeno Roma. Zeno Roma, come ho già annunciato, è un produttore allevatore di carne di coniglio, quello che però è il presidente dell'Associazione Italiana Coniglio Italiano. Zeno Roma, buongiorno. Buongiorno. Allora, lei ha sentito i pareri di quelli che stanno in qualche maniera minando al core business della sua attività. Cosa ha da dire? Certo, intanto premetto che è giusto ascoltare il parere di tutti e presumibilmente delle parti di ragione anche ho sentito. Per esempio ho sentito un radioascoltatore che parlava di migliorare gli ambienti in cui alleviamo i nostri animali. Sicuramente possiamo farlo, anche se noi, le dico, stiamo esattamente seguendo le linee guida che ha emanato il Ministero, quindi i nostri allevamenti stanno sicuramente lavorando secondo normativa, però credo che qua sia anche corretto pensare che si può dare una vita migliore anche a questo animale, sebbene sia già predestinato. Però volevo soprattutto sottolineare una questione, e qua secondo me si sta facendo un po' di confusione, perché si sta scambiando il criceto per maiale, cioè i conigli da compagnia sono i famosi conigli nani, sono praticamente un'altra razza, sono completamente diversi dai conigli. Tipo l'argentata piccola, rete nano, rete piccola, avana, cincilla piccolo, questi qua sono? Esatto, sono giarra bianca. Esatto, che poi si capisce già che non sono destinati all'alimentazione, certo. Perché pezzata inglese. Esatto, i conigli che alleviamo noi sono degli ibridi, sono degli incroci fra razze fatti apposta per creare un coniglio da carne. E io vorrei, visto che ho l'opportunità ogni tanto anch'io di schierarmi dalla mia parte, perché di solito sono abituato a ricevere sempre gli attacchi, io sono convintissimo che se invece le persone potessero conoscere le proprietà nutrizionali della carne coniglio raddoppierebbero le vendite, perché ha delle proprietà straordinarie, è una carne che è povera di grassi, è senza colesterolo, è ricca di proteine, è l'alimentazione ideale per gli atleti, per gli anziani, per i bambini. Purtroppo è poco pubblicizzata. Perché? Perché siamo un settore, nonostante siamo il secondo produttore al mondo di carne, perché è una nostra tradizione. Ecco, in Italia, l'Italia è il secondo produttore al mondo di carne di coniglio. Esatto. E quanta gente lavora, diciamo, nell'indotto dell'allevamento e lavorazione del coniglio, più o meno? Ma guardi, l'indotto procura un fatturato di circa 300 milioni di euro, quindi io presumo che ci saranno un 500-600 aziende professionali che producono, e tutto l'indotto dai mangimifici alle macellerie e quant'altro, quindi dopo i numeri sono destinati ad ampliarsi rispetto a quelli. Quindi la vede un po' difficile, diciamo, bella la battaglia ideale, ma questa forza lavoro si ritroverebbe in teoria senza aver nulla da fare se il coniglio fosse bandito. Beh, io comincio lascia andare a casa 8 dipendenti che magari hanno fatto anche il mutuo, perché sa, dopo si vive mica solo di sogni. Certo, certo. Quindi cioè, io rispetto assolutamente e dico ai vegani, e se sono convinti di quello che stanno facendo, che facciano pure propaganda attraverso altre persone a non consumare la carne, però fare una petizione per impedirmi a me di fare il mio lavoro lo trovo scorretto e anche veramente una cosa aberrante. Sì, però, adesso faccio parlare Gianluca Felicetti, però io penso che esprimono una visione della vita che è lecito esprimere, già da come ha descritto lei l'industria del coniglio la vedo molto difficile poi che in realtà tutto questo possa essere messo in crisi. Gianluca Felicetti. Sono esistiti tanti tipi di produzioni che poi la morale di un paese, la morale di una nazione ha messo fuori legge, quindi noi speriamo che l'Italia abbia così questo coraggio. Ma voi fate la distinzione fra il coniglio d'allevamento e il coniglio da compagnia? No, perché questo è come l'applicazione del razzismo in ambito umano. Cioè, sembra i conigli di razza ariana si salvano, i conigli volgarmente banali vengono... Le persone di colore nero possono essere schiave, invece i bianchi... Se vale per tutti, chiaro. Allora, cioè sono d'accordo anch'io. La differenza è che i libelli si salvano. Dagli allevamenti o persi dai camion durante il trasporto sono entrati nelle case e se possibile hanno dato anche molto più affetto dei conigli di razza, virgolette, costruiti solo per essere magari oggetti in appartamento. Noi abbiamo documentato la realtà degli allevamenti, l'allevatore dice vorrei far conoscere proprietà nutrizionali delle carni d'allevamento. Noi vogliamo far conoscere la realtà dei loro allevamenti chiusi, abbiamo fatto un'investigazione sotto copertura, un primo video è sul nostro sito coraggioconiglio.it, testimonia la realtà quotidiana di una violenza efferata che avviene lontano dagli occhi di tutti. Questo però devo dire, Zeno Roma, voi siete in regola con quelle che sono le leggi e i regolamenti che prescrivono, diciamo, delle norme per allevare i conigli? Ma assolutamente sì, ma poi guardi, se io mi riferisco, penso che il dottor Felicetti si riferisca a quel servizio che è uscito qualche giorno fa sulla Radio Rai, intanto premetto che ho visto un servizio collegato a tre servizi diversi, dei quali uno molto antico secondo me. Ho visto delle cose che non devono esistere, cioè ci sono situazioni che se esistono vanno denunciate, ma ci mancherebbe, lì hanno ragione, però magari non trovo corretto neanche il fatto di mettere assieme dei video per far vedere quanto negativo è il nostro settore, che non è così, perché se lei mi permette di fare un video sulla mia azienda sono sicuro che faccio anche una bella figura. Però Roma, a questo così. Punto diciamo esiste un livello oltre il quale la contrapposizione è inutile, perché sono posizioni ideologiche e è come dire portare elementi di critica a una religione. Loro sono convinti comunque gli animali non vadano uccisi, sono esseri senzienti, quindi su questo non si può e usano i loro sistemi per far passare, per propagandare questo loro punto di vista, è rispettabile. Poi voglio far concludere a Cinzia. Cinzia, una battuta: i conigli che lei raccatta per strada come sì. Poveri orfanelli sono di tutte le specie, non soltanto quelli fighetti col pelo lungo? Anche... Certo, raccogliamo molto spesso anche i conigli cosiddetti da carne, da allevamento, perché qua, specialmente nel Veneto, ci sono proprio contadini che se li allevano dietro casa in maniera schifosa. Erano quelli che una volta si mangiavano i gatti. Esatto, e noi invece questi conigli comunque li diamo in adozione come animali d'affezione. Io stessa ne ho uno di 5 Qualcuno chili. Se li prende in adozione i conigli, no? Sì, comincia a cambiare anche la mentalità verso questo tipo di coniglio, che è uguale al coniglio nano, non cambia niente, anzi è più socievole, più buono di carattere, più adatto anche alla convivenza. Guardi Cinzia, con le persone. La sigla mi impone di lasciarla. Mi apre il cuore pensare che in un momento così periglioso, difficile, enigmatico, ci sono persone come lei che dedicano la loro vita all'allevamento e al salvataggio dei conigli orfanelli dalle nostre strade. Grazie.